Ti ricorderai anche tu di me, come un'abitudine, come un passatempo, tristemente in coda ai viaggi di ritorno, cantando una canzone brutta che ha successo. Che cosa fai, cosa ti viene, oh oh, quando i pensieri sono solo catene, mentre ti guardi intorno e niente ha un senso. Senza un tramonto il cielo è solo un tetto. Ci troveremo in qualche chiacchiera su quest'estate, al tavolino con gli amici nelle sere vuote. Si stava meglio quando si stava meglio, c'è troppa noia, il giorno passa lento. Ti ricorderai anche tu di me, come un'abitudine, come un passatempo, tristemente in coda ai viaggi di ritorno, cantando una canzone brutta che è successo. E ti ricorderai anche tu di me, come un posto inutile, come un conto in rosso, come quelli che usa ghiaccia giù in un sorso, come la Sardegna che ti resta addosso. Guardi le foto soltanto per darti un respiro e metti in pausa il tempo. Discordi il lavoro, discordi del frigo e dell'appartamento. Forse alla fine sarà nostalgia, ma sei più contenta così. Sognando ti accorgi che riesci a viaggiare anche se non ti muovi da qui. Ci troveremo nei ricordi matti dell'estate, sui tavolini di settembre, nelle serenate. Si stava meglio quando si stava meglio, c'è troppa noia, il giorno muore lento. Ti ricorderai anche tu di me, come un'abitudine, come un passatempo, tristemente in coda ai viaggi di ritorno, cantando una canzone brutta che ha successo. E ti ricorderai anche tu di me, come un posto inutile, come un conto in rosso, come quelli che usa ghiaccia giù in un sorso, come la Sardegna che ti resta addosso. Mentre fai taglio e cucito nel cerchio infinito di chi sta cercando un perché, quando la noia rende tutto lento. Ti ricorderai anche tu di me, come un'abitudine, come un passatempo, tristemente in coda ai viaggi di ritorno, cantando una canzone brutta che ha successo.